Ave Maria a tutti ragazzi e ragazze carissimi, ben ritrovati a tutti sulle frequenze di Radio Buon Consiglio, da Don Leonardo Maria Pompei, che vi dà ovviamente il benvenuto, come sempre. Siamo di nuovo insieme ragazzi per proseguire il nostro itinerario sui 10 comandamenti e che oggi ci vedrà, speriamo, concludere il secondo, andando a come dire, a focalizzare, se ricordate la puntata precedente, le singole specie delle bestemmie contro lo Spirito Santo. La volta scorsa abbiamo visto, diciamo così, il genere peccato contro lo Spirito Santo e abbiamo, sulle orme di San Tommaso d'Aquino, visto, diciamo, il genere peccato contro lo Spirito Santo. Adesso dovremo cercare appunto di verificare le singole fattispecie. Non ricordo se nella puntata precedente avevo concluso elencandole oppure no. Comunque, repetita iuvant, dicevano i romani, eventualmente mi perdonerete la ripetizione, però intanto le andiamo a elencare, ecco, per chi avesse dimenticato il catechismo. Io le chiedo ai miei ragazzi di catechismo di saperle queste cose. Allora, i peccati contro lo Spirito Santo sono sei: la disperazione della salvezza, ve li dico un pochino in ordine, la presunzione di salvarsi senza meriti, l'invidia della grazia altrui, l'impugnazione della verità conosciuta, l'ostinazione nel peccato e l'impenitenza finale. Ora, prima di verificarle subito, lo faremo al più presto, non mi perderò in lunghe introduzioni come al solito, però un piccolo richiamo per chi non avesse seguito la puntata precedente, bisogna farlo, no? Partendo dal Vangelo, dove Gesù parla esplicitamente del peccato contro lo Spirito Santo, prendendo come pretesto il fatto che lo scambiavano per il principe dei demoni, dato che lui cacciava i demoni. Ecco, praticamente fa comprendere che esiste una tipologia particolare di peccato che poi la tradizione della Chiesa ha specificato in queste sei forme. Sei, chiaramente, sapete tutti che sei è il numero del diavolo, quindi non può essere un numero casuale, che sono praticamente non dei peccati che la misericordia di Dio non può perdonare, che la misericordia di Dio è infinita, ma sono delle forme di chiusura del cuore dell'uomo all'azione della grazia che, se e fin quando durano, rendono impossibile a Dio operare, cioè a Dio noi sappiamo che nulla è impossibile, cioè, però Dio per operare in uno di questi casi dovrebbe sfondare la nostra porta, dovrebbe forzare la nostra libertà. Dovrebbe violare il nostro libero arbitrio, la nostra reale possibilità di dire a Dio di no. E questo Dio, se volesse, potrebbe farlo, ma questo Dio non lo vuole fare perché rispetta semplicemente lo statuto della creatura che lui stesso ha creato. Cioè, il nostro essere umani vuol dire essere dotati di libero arbitrio. Il libero arbitrio è una facoltà che dipende dal fatto che noi abbiamo una intelligenza per ragionare e una libera volontà per scegliere, quindi per aderire alle cose che comprendiamo essere giuste e buone e fuggire dalle cose che comprendiamo essere false e sbagliate. Questo vale anche per il nostro rapporto con Dio, e Dio ci sta vicino per tutta la vita e ci cerca di contattare, diciamo così, per usare un termine un po' moderno e multimediale, in tutti i modi possibili, ecco, ma non violenta la nostra libertà. E se noi prendiamo delle strade radicalmente lontane dalle sue vie, succede che ci chiudiamo alla grazia. È per questo che Gesù dice che questo peccato non può essere perdonato né nel secolo presente e nemmeno nel secolo futuro. Perché voi sapete che vuol dire nel secolo futuro? Vi ricordo un po' di catechismo, no? Se noi moriamo, per esempio, in stato di peccato veniale, diciamo che i peccati veniali vengono perdonati nel secolo futuro, nel senso che si espiano in purgatorio, perché si va all'inferno soltanto in caso di peccato mortale, non di cui non ci si è pentiti. E vedremo che l'ultima fattispecie di del peccato contro lo Spirito Santo è quella per cui si va all'inferno in punto di morte. Quindi diciamo che focalizzando bene questi peccati, cari ragazzi, ecco, capiremo quali sono i modi per andare all'inferno. Cioè quei modi da cui, se non stiamo attenti, tra virgolette, neanche la grazia di Dio può farci niente, nel senso che vi ho detto prima. Perché sono dei gesti di chiusura radicale ad essa. Ecco, quindi state tranquilli che se uno muore in una di queste situazioni va per direttissima all'inferno. Su questo non c'è proprio nessun dubbio. Certo, nessuno di noi può sapere, perché non conosciamo i cuori degli uomini, per questo che non possiamo mai giudicare nessuno se una persona in punto di morte stava in una di queste situazioni, salvo che non ce ne siano prove evidenti. Lo vedremo subito nel primo caso. Allora, il primo caso. Il primo caso è la disperazione della salvezza, che è un comportamento che offende gravissimamente il primo e più grande attributo di Dio, che è la sua misericordia. La disperazione della salvezza è quella situazione in cui si ha e si formula questo pensiero: l'ho fatta troppo grossa e per questo che ho fatto Dio non potrà mai perdonarmi. Nella Sacra Scrittura, ragazzi e ragazze carissimi, abbiamo due esempi macabri di questo brutto peccato, uno all'inizio delle sacre pagine e uno nel culmine delle sacre pagine, perché uno si chiama Caino e un altro si chiama Giuda Iscariota, il Giuda cattivo, perché sappiate che c'è anche un Giuda buono, San Giuda Taddeo, che era il cugino di Gesù, santo, quindi ce n'erano due di Giuda tra i 12, uno cattivo e uno buono. Ora, spero che sappiate la storia di Caino, comunque brevissimamente. Caino era il fratello di Abele. Abele era un santo ragazzo, bravo, e questa sua bontà era gradita al Signore. Caino invece era il classico discolaccio, diciamo così. E quindi ha commesso prima un altro peccato contro lo Spirito Santo, che poi lo vedremo, l'invidia della grazia altrui. Quindi Caino, vedendo che Abele era buono e lui no, anziché prendere esempio da lui, ripeto, tra poco vedremo quest'altra tipologia, l'ha ammazzato, il primo omicidio è stato fatto da Caino, il primo sangue versato sul pianeta Terra, la prima bevanda disgustosa, ecco, che l'uomo ha fatto bere alla nostra madre Terra, da cui siamo stati plasmati. Purtroppo è stato il primo, è stato, come dire, l'aperitivo di una lunga scorpacciata di sangue che ha bevuto la Terra e che purtroppo ancora sta bevendo. Ora, quando Dio va in cerca di Caino, un po' come aveva fatto con Adamo ed Eva, dopo il peccato originale, Caino se ne esce con la sua frase blasfema: troppo grande è il mio peccato per ottenere il perdono. Quindi, l'aveva fatta grossa Caino? L'aveva fatta no grossa, grossissima. Ha ammazzato il fratello, il fratricidio. E l'aveva ammazzato certamente senza nessuna circostanza attenuante, senza nessuna buona, per quanto possa essere tale, in una fattispecie del genere, giustificazione. L'aveva ammazzato per invidia. Che cosa doveva fare? Ah, una cosa molto semplice, ragazzi carissimi: doveva andare umilmente da Dio, mettersi in ginocchio, chiedere perdono e offrirsi all'eventuale penitenza. Basta. Quello che dobbiamo fare tutti noi quando ci andiamo a confessare. Dire una cosa di questo genere, quindi attenzione, sembra una frase propria delle persone umili, perché dice: visto, l'ho fatta troppo grossa, non sono neanche degno di comparire davanti a Dio. Quindi sarebbe umile Caino? Assolutamente no, è enormemente superbo. Non è la frase degli umili, è la frase dei superbi. Perché? Questo caro Caino non può pensare di essere tanto grande da riuscire con un atto limitato, quale è quello dell'uomo, cioè il peccato, ad eguagliare o a superare l'infinita misericordia di Dio. Quindi, capite che dietro un apparente manto dice: ammazza, oh, però poverino, sì, è comprensibile. Guarda un po', si era reso conto del guaio che aveva fatto. Se ti sei reso conto del guaio che hai fatto, vai a chiedere perdono. E se tu sei umile, se il Padre Eterno ti darà una bella penitenza di quelle che te le ricordi per tutta la vita, la fai. Questa è l'umiltà. Capite? A me rarissimamente capita in confessionale, qualche volta sì, che chi l'ha fatta grossa, voi sapete che la regola che dava il santo curato d'Ars, che i confessori devono seguire, è che quando, attenzione ragazzi, quando ti confessano, non che hanno detto le parolacce o le bugie, ma che hanno fatto un peccato grave, tu non puoi dare come penitenza tre Ave Maria. Come mi continuano ad arrivare anche cose gravissime da tutte le parti, in diretta su Facebook, ogni tanto qualcuno se ne esce e dice, sai, ho commesso dei peccati gravissimi, padre, dico, hai confessato tutti quanti? Sì, cioè, solo che mi hanno dato come penitenza tre Ave Maria, dico, bah, vabbè, non rifacciamo, no, tante volte ho già parlato di questa cosa, quindi passiamoci sopra. Però, se ti fanno una cosa del genere, tu sei umile, ah, benissimo, dici, scusi padre, io vorrei una penitenza adeguata alle colpe che ho fatto, sono perfettamente disponibile a farlo, ditelo, che così, come dire, aiutate anche un po' il confessore, perché la regola che del santo curato è questa, che uno deve dare una penitenza adeguata, tenendo presente delle però le circostanze soggettive del penitente, perché se io ritengo che una persona poi si scoraggia e non la faccio una penitenza troppo grande, gliela posso dare. Chiaramente poi la devo fare io, però, perché qualcuno i conti li deve pagare con il nostro Signore. Ecco, quindi, se siete veramente umili, tutti i miei ascoltatori sicuramente lo saranno, fate così. Quindi non andare a dire troppo grande il mio peccato per non avere il perdono. Lascia che sia il confessore, eventualmente, a dirti se ci sono le condizioni, ci potrebbero essere. Guarda, fratello mio, assoluzione subito, non te la posso dare, devi pregarci un pochino sopra. E se sei umile, ti viene detto dal confessore questa cosa per dei buoni motivi, lo accetti e lo fai. L'altro, ancora più grave, se possibile, è quello di Giuda Iscariota. Quanto l'aveva fatta grossa Giuda Iscariota? Giuda Iscariota l'aveva fatta ancora più grande di Caino, perché aveva venduto per 30 denari. Sapete, 30 denari, mi pare che un denaro era la paga di un operaio quotidiano, quindi 30 denari saranno stati 900 euro forse, quindi pensate che grande cifra, quanto si è arricchito, l'equivalente. Gesù Cristo, con cui era stato per 3 anni in amicizia, condividendo tutto di lui. Ecco, cosa ha fatto dopo? Cosa gli dicono i Vangeli? Dice, a un certo punto si è pentito, ma quello non era un vero pentimento, voglio dire un santo pentimento, perché è tornato indietro, ha sbattuto in faccia le monete ai sommi sacerdoti, poi mica è andato sotto il Monte Calvario a chiedere perdono a Gesù, affrontando anche la vergogna di farsi vedere e di tutte le parolacce che gli avrebbero detto, dice, ah, guarda un po', questo, che faccia si presenta qui? L'ha tradito e mo viene pure a chiedere perdono. Allora, se sei umile, l'hai combinato un guaio? Benissimo, te ne assumi le conseguenze. Vai sul Monte Calvario a chiedere perdono a Gesù, e se tutti ti prendono in giro, fai parte dell'immensa penitenza che dovresti fare. Sapete quante volte Gesù ha detto a tante anime sante che il regalo più grande che avrebbe desiderato in croce era vedere Giuda Iscariota andare ai piedi della croce a chiedere perdono, e non l'ha avuto. Quello ha preso e se n'è andato, anziché andare sul Monte Calvario, quindi sul Monte Calvario, quindi che era una vetta del Monte Moria, dove sorgeva il Tempio di Gerusalemme e dove fu consumato, non fu consumato, dove fu, come dire, invitato Abramo a compiere il primo sacrificio di Isacco, che poi però fu risparmiato a differenza del figlio di Dio, lui è andato un pochino più a sud, sempre a Gerusalemme Ovest, però non nord-ovest, ma sud-ovest. E a Gerusalemme sud-ovest non c'era il Monte Calvario, c'era il Monte del Cattivo Consiglio, e si è impiccato. Quindi, che succede? Un guaio grosso, che lui si è sostituito a Dio nel pronunciare la sentenza. Quindi, che capite? Cioè, questa è somma superbia. È somma superbia perché, ripeto, cioè, numero uno, non si compie il gesto contrario, che è quello di umiliarsi e andare a chiedere perdono se hai combinato un guaio. Se secondo, assumendosene le conseguenze, e terzo, lasciando a Dio il compito di giudicare. Noi non possiamo giudicare nemmeno noi stessi in questo senso. Capite? Allora, questi sono peccati, lo capite? Che sono gravissimi, sono. Perché si tratta, ripeto, di sostituirsi a Dio nelle sue funzioni, che nessun uomo può usurpare, neanche sotto l'apparente o lo specioso pretesto del bene, come in questi casi. D'accordo? Quindi, peccati gravissimi. Tra l'altro, attenzione a Giuda, fatemi un attimo dire due cose. Ho detto certamente che noi non possiamo sapere se gli uomini muoiono in queste disposizioni, ma nel caso di Giuda è abbastanza palese. E a proposito di Giuda abbiamo le parole di Gesù pronunciate nel Vangelo di Marco, capitolo 14, versetto 21. Dice: il figlio dell'uomo se ne va come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale viene tradito, sarebbe meglio per quell'uomo che non fosse mai nato. Quindi, cioè, una chiara indicazione circa la sorte di Giuda, che sta all'inferno, senza alcun dubbio, ed è bestemmia gravissima pensare che non lo sia, e mi assumo la responsabilità di quello che dico. Ce lo dice Gesù, per questo che è gravissimo pensare che non lo sia. Oppure non capiamo bene l'italiano, oppure non capiamo bene il greco, la lingua in cui sono stati scritti i Vangeli. Sarebbe meglio per quell'uomo che non fosse mai nato. Meglio per quell'uomo che non fosse mai nato. Cosa c'è di peggio della non nascita? Che non soltanto sta all'inferno, ma sta sprofondato nell'inferno a fianco a Satanasso, esattamente lì dove l'ha messo Dante Alighieri. Quindi, punto, ecco. Quindi, guai a noi, l'abbiamo visto la volta scorsa, non esiste peccato, cioè, se tu sei pentito, questo è il punto, se tu sei pentito, ne avessi fatte anche, come si dice, quante Carlo in Francia, ti vai a confessare e puoi sperare nella divina misericordia. E ti offri alla penitenza e all'espiazione. Zitto e mosca. Ora, c'è una fattispecie completamente speculare rispetto a questo, c'è cioè l'opposto. Quindi, che è la presunzione di salvarsi senza meriti. Oggi questa è diffusissima, diffusissima. Oggi non c'è il problema, a mio modestissimo avviso, della non credenza nella divina misericordia. Oggi nella divina misericordia ci si crede un po' troppo e ci si crede soprattutto un po' male. Tante volte sono intervenuto in non so quanti interventi su questo tema. È un peccato contro lo Spirito Santo. Questa eresia, che è una bestemmia grave contro lo Spirito Santo, presunzione di salvarsi senza meriti. Meriti, noi per andare in paradiso dobbiamo avere dei meriti, ragazzi. Non si va in paradiso così. Spero che facciate le preghiere del mattino e della sera. Nell'atto di speranza si dice: mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna, virgola, e le grazie necessarie, attenzione bene, per meritarla. Con le buone opere che io debbo e voglio fare. Quindi, se io non acquisisco dei meriti con alcune buone opere compiute, certamente con l'ausilio della grazia di Dio, in paradiso non ci vado. Capito? Non date retta a quella che dicono che Dio è buono, che Dio fa questo, che Dio fa quell'altro, che tanto alla fine si salvano tutti. Non sono vere queste cose qui. La Chiesa non le ha mai insegnate queste cose qui. Mai. Quando poi uno si ritroverà all'inferno, perché se uno ha questo costo, un peccato contro lo Spirito Santo, si ritrova lì, ecco, sapete come saranno accolti questi signori da Satanasso? Ve lo dico io. Appena li vede, gli fa: sorpresa, guardami un po', ciao! E adesso come la mettiamo? Non servivano le buone opere? Vieni, vieni! Infatti non servivano le buone opere per venire qua. Anzi, servivano quelle cattive, servivano per andare in paradiso, perché non le hai fatte? Allora, ieri hanno cominciato prima i protestanti, che oggi sono, abbiamo San Lutero adesso in giro, che se ne sentono tutti quanti i colori. Ma, è meglio che mi sto zitto che stiamo in diretta radio, guardi. Comunque, i protestanti, è stato Lutero il primo a dire che non ci si salva per le opere ma per la fede, poi seguito da tutti quanti i suoi amici, Melantone, Calvino, eccetera. Poi sono venuti poco dopo i quietisti. Dio ce ne scampi e liberi. Quietisti si chiamano quelli che pensavano che uno possa starsene tranquillamente a braccia conserte, che tanto ci pensa la grazia di Dio a mandarti in paradiso. Ma questa eresia, per la verità, era antichissima, è stata la prima a comparire nel corso della storia della Chiesa, perché all'eresia degli gnostici, nel libro dell'Apocalisse, per chi conosce un po' la Bibbia, sono chiamati Nicolaiti. Pensate cosa dicevano questi, che la salvezza dipende dalla conoscenza di alcune verità di fede superiori, diciamo così, fatte per persone che hanno il cervello, per alcune piccola elite di eletti, non chiaramente per il volgo, per la gente comune. Quindi, se tu conosci queste cose, vuol dire che sei un eletto e che quindi sicuramente andrai in paradiso. Poi puoi fare tutti i peccati che ti pare, anzi, qua ti dico anche un'altra cosa, dicevano loro: i peccati impuri li puoi fare tutti quelli che vuoi, perché tanto la cosa importante non è il corpo. Il corpo è roba di serie B, la cosa importante è lo spirito. Quindi i peccati impuri, che sono peccati che si fanno con il corpo, a noi che siamo esseri superiori, ma che ci fanno? Noi siamo al di là, noi siamo al di sopra, noi siamo superiori. Pensate a quanto era grossa sta cosa. Cosa sommamente falsa, perché i peccati che commettiamo col corpo sono gravissimi, proprio perché non sono solo peccati commessi col corpo, come anche le scienze umane oggi dimostrano, e non serve ricorrere alla psicologia, ma perché sono peccati commessi con tutta la persona, perché il nostro spirito è come che non partecipa, sceglie di farlo, vuole farlo, gode nel farlo. Quindi figuriamoci cosa stavano dicendo. Oh, però questi eretici oggi sono tornati, oggi si chiamano modernisti oppure si chiamano i buonisti, i buonisti. Quelli che dicono: ma Dio è buono. Una volta mi ricordo andai a portare la mia parrocchia in visita alle catacombe di non mi ricordo chi, di San Callisto, di Santa Priscilla. C'era una guida, un prete, che a un certo punto, figuriamoci, di gente che è morta martire, capite? Quindi pensate che testimonianza eroica di fede che ha dato, cominciato a uscirsene: ah, ma Dio non castiga, Dio non castiga, il Dio che io conosco non castiga, è buono, è misericordioso, figuriamoci. La Bibbia è piena di queste cose. Egli castiga e usa misericordia, fa scendere negli abissi della terra, fa risalire dalla grande perdizione. Tornando sul pullman, ho dovuto fare una controcatechesi ai miei parrocchiani, perché dico, li porto in pellegrinaggio alle catacombe per essere edificati e per prendere dei buoni esempi di fede eroica, e tornano eretici con questo qui che si mette a dire queste cose che non stanno né in cielo né in terra. Ecco. Quindi questa eresia, oggi diffusissima, che è una grave bestemmia contro lo Spirito Santo, serve a popolare l'inferno di ignari buontemponi, pressappochisti e illusi. Piccola pausa per l'Ave Maria, che sono le 17, e poi riprendiamo da qui, ragazzi. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Quindi, questo peccato, a differenza di quell'altro, che presume in maniera eccessiva della giustizia di Dio, il primo che abbiamo visto, e minimizza la misericordia, questo fa il contrario. Presume della misericordia e minimizza la giustizia, presentandone una visione unilaterale e parziale, e quindi confondendo la bontà di Dio con una sorta di sua dabbenaggine o debolezza, per cui Dio non farebbe mai nulla, qualunque cosa l'uomo faccia. Non andrà dannato. È assurdo pensare che Dio mandi qualcuno all'inferno, tutte le altre cose si sentono oggi qua a destra e a sinistra. Allora io, quando vengono a dire queste cose, gli dico: senti un attimo, no? Perché poi la gente si pensa sempre di essere santa, di essere chissà che o chissà che cosa. A me questo discorso mi può anche stare bene. Va bene? Facciamo Facciamo così, accanto a te in paradiso, perché tanto tu ci andrai, dato che il Padre ci manda tutti, io voglio vedere accanto a te, senza che dia nessun segno di pentimento, il primo pedofilo del mondo, cioè uno che ha fatto secco 400.000 ragazzini senza nessuna pietà, che prima li ha stuprati a sangue e poi li ha ammazzati. Lo voglio vedere a fianco a te in paradiso. E che il Padre Eterno tratta lui esattamente come tratterà te. Sei contento di questo? Provate a dire così a qua, perché tu questo stai dicendo. Ma vogliamo scherzare, vogliamo. E purtroppo alcune cose sentono dai pulpiti. Alcune cose di queste. E non troppo infrequentemente, tanto almeno alle cose che mi arrivano, arrivano sempre tutte a me, ragazzi, non posso fa niente. Oggi la giustizia di Dio è argomento finito, ma la dottrina della misericordia, vi invito, su, come si chiama, sulla TV dell'Immacolata c'è un ottimo archivio, andatevi a risentire qualche bellissima catechesi di Padre Stefano sul tema, conoscete Padre Stefano, spero. La dottrina della misericordia è di satanica invenzione, ovviamente quando è presentata in questo modo balordo, perché lungi da noi negare o disprezzare la divina misericordia, senza la quale andremo tutti all'inferno, tutti, nessuno escluso. Ma non così, la misericordia divina c'ha come sorella gemella la giustizia, vanno appaiate. Io dico sempre ai miei fedeli, attenzione, Dio è giustamente misericordioso e misericordiosamente giusto. Non disgiungere mai una cosa dall'altra, se no cadi in uno di questi due peccati contro lo Spirito Santo e sei morto. Noi dobbiamo sperare nella Divina Misericordia, ma non dobbiamo sfidarla la Divina Misericordia, né dobbiamo abusare della Divina Misericordia, perché se tu dici, ecco faccio tutto quello che mi pare, tanto poi mi confesso, è un peccato contro lo Spirito Santo, è una presunzione di salvarsi senza meriti. Dio non è un bamboccio, ragazzi, non è andato a morire in croce versando fino all'ultima goccia di sangue, perché tu possa dire a chi se ne importa, facciamo un altro peccato, anzi mo facciamone 400 dei peccati impuri, poi facciamo tutto un conto, a Natale mi confesso e poi a Santo Stefano ricomincio. Ma che siamo matti, oh? Che so ste cose? Ma voi sapete quanta gente ha il cervello bevuto in questo modo e pensa, come sta scritto nel Nuovo Testamento, di prendersi gioco di Dio. Sta scritto nel Nuovo Testamento, nelle lettere di San Paolo o di San Pietro, non ci metterei la mano sul fuoco, casomai controllo la citazione e ve la dico la prossima volta. Non illudetevi, non ci si può prendere gioco di Dio, con Dio non si può scherzare in questo modo. Cioè Dio è un angioletto, è un padre tenerissimo, lo vediamo nella parabola del figlio al prodigo, contro un povero peccatore che ne ha fatte anche grosse, che dice: padre mio, ho fatto un macello, non lo faccio più, non volevo, basta, ho chiuso, trattami come l'ultimo dei tuoi servi, fammi fare pure sotto penitenza tutta la vita, però perdonami. Ecco, così Dio diventa un angioletto, ma non certo con il furbetto che pensando, tanto che ti importa, tanto Dio non giudica, vado tutto in paradiso, tanto Dio è buono, quindi faccio come mi pare, e poi magari ogni tanto quando vado a farmi la comunione, vado a fare una confessione nulla, se la fai così, sacrilega, se la fai così, ma faccio la comunione e poi ricominciamo come meglio di prima. Ok? Va bene così? Ma stiamo scherzando? Allora, la dottrina cattolica ha sempre insegnato che, uno, certamente senza la grazia di Dio noi non possiamo fare nulla, Gesù ce lo dice nel Vangelo di San Giovanni, senza di me non potete fare nulla, si chiamano tecnicamente la grazia preveniente che ci muove ad agire e la grazia coadiuvante che ci aiuta a compiere un'opera buona. A fianco a questa grazia coadiuvante coopera la nostra libera volontà, che si deve sforzare. A volte deve sforzarsi fino a sudore, fino a lacrime, a volte fino al sangue. I martiri sono morti, ragazzi, sono morti ma ammazzati in maniera truce alcuni. Gesù nel Vangelo dice: sforzatevi di passare per la porta stretta. D'accordo? In paradiso, state tranquilli che il grande stupratore, come il pedofilo, State tranquilli che non sta a fianco a San Francesco in paradiso, state tranquilli. Se questo si pente, almeno in punto di morte, la misericordia di Dio, se c'è un pentimento sincero, lo perdona. Ma state tranquilli che quello non sta a fianco a San Francesco in paradiso, state tranquilli. Si farà purgatorio lungo, doloroso, anzi dolorosissimo e lunghissimo, e poi arriverà in paradiso dopo purgatorio lunghissimo e dolorosissimo, ma starà, come dire, all'ultimo cantuccio del paradiso. Come dicono a Roma, io sto vicino a Roma e ho la mia mamma buonanima che è romana, si è salvato per rotto della cuffia, ecco, ecco. Si dice così a Roma, così succede. Quindi guai a noi, è un peccato contro lo Spirito Santo, attenzione, la presunzione di salvarsi senza meriti. Quindi l'abusare della misericordia di Dio, l'abusare della misericordia di Dio, pensando che tanto lui è bello, buono e tranquillo e che posso fare quello che mi pare, che tanto non ci sono conseguenze, non succede niente, anzi sarà sempre la porta aperta per il perdono. A me è successo recentissimamente. Un caso X di una persona che io conosco bene, e sono venuto a sapere che conviveva, oltre ad aver avuto un figlio, ma io non sapevo né che convivesse né che gli era nato sto figlio. Mi dice: ah, mi meraviglio di te che sei prete, non mi fai nemmeno gli auguri perché è arrivato questo figlio. Io dico, aspetta un attimo, aspetta un attimo, che forse stiamo su scherzi a parte. Allora, ti spiego un attimo una cosa. Numero uno, non sapevo che convivevi. Numero due, non sapevo che ti era nato un figlio a venerabile età. Numero tre, c'è un piccolo problema, d'accordo? Piccolissimo, eh? Tu sei battezzato figlio di Dio e io sono un prete. Allora, i sacramenti del Nuovo Testamento sono sette, tra cui c'è il matrimonio. Per i battezzati normali, quindi non è che sono santi con l'aureola, i figli li fanno dopo che sono andati davanti a un altare e davanti a un ministro a sigillare davanti a Dio la loro unione, non prima. E ricordate però, ragazzi, non è normale quello che fanno adesso in giro, che ci sarei sposato con 2, 3, 4 figli, convivenze e matrimonio al comune, eh? Ste cose si pagano, eh? C'è la possibilità di pentirsi e di regolarizzare, ma ste cose sono gravi, so. Quindi dico, a parte che non le sapevo tutte queste cose, ma se anche l'avessi saputo, essendo io un prete, fermo restando che una vita che viene al mondo, che Dio la benedica e che non c'entra niente con i peccati che hanno fatto i genitori, ma di certo non avrei fatto le feste in maschera a dire evviva, auguri, complimenti! Certamente no, perché la vita è sempre una vita, ma la modalità con cui questa vita è venuta al mondo, Dio non la gradisce e non la approva. E io che sono un suo ministro, non la gradisco e non la approva. Sapete cosa ha risposto questo qui? Ah sì, lo so benissimo che la Chiesa insegna queste cose, ma tanto a me Dio non mi giudica. È capitata una circostanza in cui mi trovavo in una funzione con questa persona, tranquillamente andava a farsi fare la comunione. Chiaramente io non celebravo, se no se la stava per fare la comunione, sapendo io questa cosa fuori della confessione, no? Capito? È tranquillo. Queste cose oggi sono diffusissime, questo peccato oggi è diffusissimo, è un peccato contro lo Spirito Santo, quindi vuol dire qui stiamo nella categoria dei peccati in assoluto gravissimi, quelli che non sono perdonati, non sono perdonati perché non sono perdonabili, se non attraverso un grandissimo pentimento, cioè tu devi smettere di pensare in questo modo balordo e di abusare della divina misericordia e di sfidarla. Dio non è un bamboccio, ragazzi. È ora che ogni tanto facciamo un attimo un po' di meditazione, ci rendiamo conto che Dio è Dio, che Lui, essendo un grande, anzi il più grande di tutti, lasci fare, non ci fulmini tutti quanti come meriteremo seduta stante, sprofondati tutti all'inferno e chi vi parla sarebbe il capofila. Questo dipende dalla sua infinita longanimità, non dipende dalla sua debolezza. Il fatto che lui sia tollerante, aspetti i peccatori a penitenza, non vuol dire che approvi i peccati che fanno, né che ha dato a nessuno, e questo lo dice San Paolo, il permesso di peccare. Il permesso di peccare non ce l'ha nessuno, neanche di dire una bugia di scusa ci abbiamo il permesso. perché c'è l'ottavo comandamento. Terzo peccato contro lo Spirito Santo, l'invidia della grazia altrui. Cos'è l'invidia della grazia altrui? Ecco, la prima parte del peccato di Caino. Allora, Caino era un bricconcello, ragazzi, era un ragazzaccio, ecco. Ah, un ragazzaccio, questo succede anche oggi, se vede un bravo ragazzo, tutto bello, educato, che va a messa, che non dice le parolacce, eccetera, cosa fa? Lo comincia a scherzare, lo comincia a sfottere. È arrivato il santarellino, è arrivato il sognatore, è arrivato qua. A volte ci stanno gli episodi del bullismo, delle cose, non l'avete conosciuti? Sapete qual è il movente? È che quello è buono e che quell'altro è cattivo. Quello che è cattivo invidia quello buono, per questo che lo tratta male. A volte capita anche nel piccolo, a scuola. Ci sono alcuni che sono molto bravi e altri meno. E altri meno. È vero che questi alcuni che sono molto bravi a volte sono un pochino antipaticucci, perché uniscono alla bravura qualche volta un certo grado di superbia. Però sono bravi, d'accordo? Quindi quando vedo uno più bravo, sapete cosa bisogna fare? Una cosa facilissima. È più bravo, prenderò buon esempio e cercherò di diventare bravo come lui. Qual è il problema? Se vedo uno che è più santo di me, cosa devo fare? Hai visto che bravo che è? Io non sono così? No, potrò diventarlo. Rimbocchiamoci le mani. E il Signore mi ha fatto conoscere questa persona perché mi desse attraverso il suo buon esempio uno sprone per diventare più buono e più santo. Qual è il problema? Scusate. Qualche problema? Qualche problema? Non credo, no? L'invidioso invece della grazia altrui vede quell'altro che è più buono e più santo e anziché prendere buon esempio comincia a dire: ah, mo ti faccio vedere io. Guardate che questo peccato ha causato la morte di Gesù. Questo è stato il peccato che ha portato in croce Gesù da parte dei suoi nemici. Perché l'hanno messo in croce? Storicamente, adesso noi sappiamo che Gesù è morto in croce per la salvezza e per i nostri peccati, che era scritto, che era volontà del Padre. Va tutto bene, ma le circostanze storiche concrete, chi ce l'ha messo in croce Gesù? I giudei ce l'hanno messo in croce, noi romani. E perché? Perché era santo e perché gliele cantava e loro santi non erano. Tutto qua. Vi ricordate il Vangelo di San Giovanni cosa dice? A un certo punto l'Evangelista nota che Pilato voleva liberarlo e dice: sapeva bene che gliel'avevano consegnato per invidia. Per invidia, per invidia. E dire che Gesù certamente non aveva degli stili tali da farsi, non era come quei bravini primi della classe che si fanno odiare perché stanno sempre a mettersi in mostra, a tenere la mano alzata, lo so io professoressa, lo so io, lo so io, lo so io, e si rendono chiaramente un po' antipatici. Certamente Gesù non faceva così, aveva uno stile amabilissimo, aveva un modo di fare tranquillissimo, accattivante, affabile, dolce, misericordioso, non faceva pesare la sua santità, non la ostentava, quindi che t'ha fatto Gesù? Cioè dava tutte quante, cioè, ha avuto tante le carte in regola per offrirsi come esempio da imitare, invece è stato odiato e messo in croce per questo. Prima di Gesù c'era stato un altro, prima dei farisei e dei giudei che hanno ucciso Gesù c'era stato un altro nell'Antico Testamento. Andate a leggere nei libri di Samuele. Primo e secondo, la storia del re Saul, assolutamente terribile, terrificante. Saul, sapete che è stato il primo re di Israele, e a un certo punto, a fianco a Saul, è sorto un bambino, un ragazzotto, Davide. Sapete la storia? Che a un certo punto i Filistei avevano un super guerriero che aveva sfidato gli ebrei, Golia. Questo super guerriero che aveva sfidato gli ebrei cercava tra gli ebrei un contendente. Tutti avevano paura e questo ragazzino, Davide, si offre come volontario per sfidare Golia. E sappiamo tutti quanti la storia. Scende a combattimento con lui e e con una fionda contro questo gigante che era super armato, lo abbatte e lo uccide. Da quel momento comincia l'escalation verso il bene di Davide e nostro padre Saul comincia una persecuzione tremenda nei suoi confronti, motivata appunto dall'invidia. Quindi, se facciamo poi presente, Gesù, come abbiamo in qualche modo accennato, è stato lo stesso ucciso dai nostri cari fratelli ebrei, che però purtroppo a quei tempi qualcuno di loro ha commesso qualche grave errore di valutazione, non solo, come ci dice il Vangelo di Giovanni, per invidia. Gesù era santo e aveva anche dei modi molto molto gradevoli, insomma, di fare, e purtroppo ha scatenato, anziché l'emulazione, quindi il desiderio di conversione, di imitazione dei suoi santi esempi, un odio feroce da parte di chi santo non era e santo non aveva nessuna intenzione di diventare. Guardate, ragazzi, trasmissione abbastanza turbolenta. Avviamoci verso la chiusura, che forse è meglio, che ci sono dei contatti un pochino complicati oggi. Allora, abbiamo affrontato purtroppo, a causa di queste enormi complicazioni, soltanto le prime tre fattispecie di peccati contro lo Spirito Santo. E ve li ricordo brevissimamente: abbiamo oggi affrontato la dispersione della salvezza, la presunzione di salvarsi senza meriti e l'invidia della grazia altrui. La prossima volta sicuramente concluderemo, io speravo, con una trasmissione un pochino più tranquilla, di riuscire a farlo oggi, non ci siamo riusciti. La prossima volta concluderemo con le altre fattispecie di peccati contro lo Spirito Santo, che sono l'impugnazione della verità conosciuta, l'ostinazione nel peccato e l'impenitenza finale. Con questi argomenti poi daremo termine al secondo comandamento, che fondamentalmente, come abbiamo visto, si riduce alla bestemmia, magari facendo una piccola postilla su alcuni peccati minori. Ce n'è stato un altro che è abbastanza grosso che si può fare, che è il falso giuramento. Quindi concluderemo probabilmente con dei rapidi riferimenti ad alcune altre gravi tipologie di peccati contro il secondo comandamento, come il falso giuramento oppure la trasgressione di un voto, e ad altre forme minori, insomma, come la nomina non irriverente, come nominare in vano, insomma, nell'intercalare il nome di Dio, della Madonna e dei santi. Quindi di questo ci occuperemo nelle prossime puntate. Io vi saluto per oggi, ringraziandovi della cortese attenzione, chiedendovi perdono per questi piccoli inconvenienti tecnici. La prossima volta cercheremo di pregare un pochino di più, perché possiamo riuscire a fare una trasmissione tranquilla e senza troppi incidenti dall'inizio alla fine. Vi benedico tutti, vi auguro una santa settimana. Sabato prossimo è il primo sabato del mese. Io approfitto, prima di concludere, con tutti i miei ascoltatori, perché forse non tutti conoscono il mio profilo Facebook. Io quest'anno, per una divina ispirazione, vi prego di ritenerla come tale, ogni primo venerdì del mese ogni primo sabato del mese, dopo la Santa Messa, farò un gesto di devozione mariana, che è la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria dei fanciulli e dei ragazzi fino ai 18 anni. Ecco, sto invitando le persone da qualunque parte vogliano venire, perché abbiamo, insomma, la chiesetta è piccola, ma il salone parrocchiale vicino a noi è abbastanza grande. E quindi chi vuole intervenga. Lo so che è un piccolo viaggetto da farsi, insomma, però un prete che consacra un bambino, io generalmente lo faccio al termine di tutti quanti i battesimi che amministro. Siccome non tanti fanno questa cosa, e so per certo che questo gesto è particolarmente caro e gradito alla Madonna, se qualcuno ci avesse voglia di farsi un viaggetto, insomma, dalle parti del Basso Lazio, dove io mi trovo, a Latina, a Borgo San Michele, sappia che sabato prossimo alle 18:30 c'è la messa, alle 19:30 circa, tra l'altro è anche la Candelora, il 2 di febbraio, ci sarà la consacrazione dei fanciulli e dei ragazzi al Cuore Immacolato di Maria. Ci sentiamo, se Dio vuole, speriamo con un po' più di calma e di pace, la settimana prossima, martedì. A tutti una santa settimana e Ave Maria.